Quando mamma della puerca, capito? Vicino alle curve di Padore. Si sentiva l'accento che era africano. Non è vero, ma orribile. di ciò. Poi devi venire giù, nella giungla. Sì, a te. Dimmi, Jonathan. Ma è vero. Eia, in la giungla vivi, non lo sai, sono randaggi. No, sudici. Siamo nordici, loro sono sudici. Vabbè. No, no, no. Sudano. È perché c'è caldo lì, e lo dico che sudano, e sono sudici. Ho visto, quando si è cercato la moglie, e ha detto, ma, non so cosa dire. Ahahahah! Corrale da va! Oh! Corrale di... due uomo che gioca! Non lo sai che così! Si chiama la riccio, cagliere! Bello! Cagliere, maurino, maurito! Mi ha dato l'intendere anche sfresciato! Sono quasi un'ometa, ma com'era? Vuoi mettere la portante tu, se no te ne taglio l'antenna. La portante Natale ti hanno messo. Ma è vero. È vero. Natale si è parlato qua, da tranquillo, tranquillo. Io li mando a trovare di più uno. Questo qua è entrato, offendeva, ma così entrava, offendeva, parlava come parlava l'ultimo della Castillo, offendeva i sassolici, e poi non ho scoperto chi era. Chi era? È un camionista, non è più entrato, ma non ho scoperto. Non le conveniva parlare così, non le conviene offendere Sassarini, ma io dico questo, se vuoi entrare entra, magari ti fa una chiacchierata, dai, cioè, però non ti ci comportare, perché non va bene. Lo so, ma purtroppo è così. E poi questo qua l'ho scoperto, io stavo scherzando, ma scherzi a quale sono? E infatti chi l'ha scoperto gli ha detto, vabbè, meglio che ti stai zitto, meglio che non metti più la baracchina. Infatti la linea vuoi entrare, mi guarda. Così ho capito, eppure non lo so. Quella è la cosa più giusta a farlo, perché no, non è giusto fare quelle cose. Non direi che mi metti la portata, perché non mi fai niente a me. Tu non è che ti compra, ti appassi il tuo, è appena più alto di te, appena più alto, appassi tu. E beh, già lo credo che passo io. Non la passo, no. Ma tu te la mangi. Che spazio te ne sono, avresti fatto un altro mezzo giro, va. La buca più che quella portante. Ma vero. Ma che? Passate tu, la passata, tranquilla. A me no, beh. A te, non lo so. Beh, quando c'è che non è tutto più. Non lo so. Ma non è che sta tutto, no? È stato già qua, è dove? La pezzo, quella lì. Che strano, arriva 9:30. Siete da casa e non passa via il Paolo. Come le conne? Lo passo io, quindi. Mamma non mi spiace. Devo vedere in due allora, per favore. Antonio, osserva, ascolta con quell'orecchio. La favuccia. Le cuffie, quelle della Sisa, 3.000 punti, più 5 euro. E come sono? che date le hai? Già, mi mancano 50 punti. Ancora? Ma qual è ma gli ultimi regali che sono usciti adesso? Ehi, sono per 2 punti te, guarda in beneficenza. Che quando scadono, perché? Domani mi sembra. Ah, vero, non me lo ricordavo. E tu quanti ne hai, perché? Non me lo ricordo, devo guardare. Come scendere stasera? Poi ci sono dei prodotti, non so, magari, cosa ne so, una bottiglia di, non ti posso dire, di vino, ti hanno 70 punti, poi una bottiglia, c'è il coso, la, ma come si chiama? Chivas Regal. Se prendi quello ti danno 350 punti. Ascolta me, quanti punti ci vogliono per le cuffie? 2.950 più 5 euro, se no 4.200-4.300. Allora tu non ce la fai. 50 punti mi manca, ma se no vado a fare un po' di spesa e le ordino. Va bene, no, ma penso che già le rinnovino. No, c'è una scadenza, dovevo scadere a gennaio, l'hanno prolungato per febbraio, fine di febbraio, dai. E a quanto so appunto scadono domani. Boh. E ho un paio di cuffie, sono paurose. Qua, bisogna andare a Luigi a vedere se sono buone quelle cuffie, se si sentono bene. Sì che si sentono bene, le ho provate io. Quella della Philips. Ehi, quella è per far figli. Ehi, dai, allora va bene. Come funziona la batteria solo? Non lo so come funziona, non è da attaccare due, è vero, avranno la batteria, saranno la batteria, capito, perché avranno il circuito. Ecco un attimo. E quindi funzionano così. Io le ho provate e sentono bene, perché le attaccate a un baracchino e funzionano bene. Ehi, avanti Black. 7351, arrivo da questa parte. Qui arrivo, buonasera. Ciao, buonasera. Ciao Natalino, super salutoni. Io ne ho un paio, me ne ho comprato. Quelli ha parlato sopra. Sono Golfino, sono da lì, sono tremende queste. Le ho provate su un impianto di Gianni che sono paurose. Se le ha comprate anche lui uguale. Migliaia, vai te. Ciao Teresa per caso. Fagli Rogero, ciao Regolo, ben sentito, salutoni. Ciao Teresa, salutato per te. Ehi, ehi, a me come va? Tutto bene? Fagli Rogero, sembra che tutto vada bene. Ehi, ehi, a mangiato abbiamo, sì? Negativo, oggi niente, di giù e stimenta. E come mai? Fagli Rogero, la mia metà non ha preparato niente. Non è passato il convento oggi? Niente ha preparato, quindi ha pensato al figliolo e non a me. Ah, così è, va bene, già va bene, già va bene. Salutami a Rita. Per il Roger, super saluto nella ruota, risentisci alle prossime. Ciao, ciao. Ciao a te, ciao, ciao, salutami a Rita. Ok, riprendilo. Ciao a te, ciao, ci sentiamo. Va a mangiare, vai. Dai, puoi morire. Sapa cosa mangio? In piedi al tavolo? C'è, io non sei senza mangiare, no? Ma poi c'è un po' di frutta. Ma io già ho mangiato, sto bene, Hai visto? Bene, sta bene. A Rosai hai la borbolite? Borbolite? Ehi, allora, Rispondi al telefonino. Perché poi mori, tutti bene, ma di cosa? Sciuti e muori. È una scena che si batte, la idea. È una scena. La prima volta la butto giù di Natalì. Sentite questo film, c'è la maglietta, no? E mi fa il CD. Sentite questo film e comincia. Ma ci diamo messo, ma ci diamo messo video quello che fa quello che. E conduce il colorato caffè e fa, e io gli faccio, ho sbagliato cibi da di tu, no, è messo quello vergine. Sì, lasci, guarda, ma ti fate caliente, allucinare, è fuori di testa. Avanti Daniele, mangiato, cosa vuole mangiato? Ho già mangiato, un po' di spezzatino, e buh. Meglio di nuda. È un po' di pasta, non si è mangiato un arancio, e buh. No, non volevo mangiare pasta, lunedì mattina e sera, giorno e notte. Come è strana dove c'è adesso, Daniele? Buh, come è strana? Questo è il 48, dai, puoi recitare, lo pretendi. Staccato, sì. Eia. Stacca, vedere, vediamo un po'. Guarda, adesso è staccato, com'è? È più bella la radio, Daniele. Poi è schifo con l'amplificatore. Un pochino già se la mangia. Se la mangia, sì. Se la mangia, sì. Dunque, se ti interessa, io ne sto prendendo uno, questo lo sto usando io. Lo stanno prendendo, è roba mia. È nuovo, nuovo. Se ti interessa, fammelo sapere. Lo proviamo. No, volevo fare un'altra operazione, altro che amplificatori, Certo, ti posso garantire che va benissimo. Va benissimo. Poi vedi tu. Dammi per, siccome è un po' fermo, la facciamo un po', tu tieni lo tuo e così lo fai scaldare. Ogni tanto lo attacco. C'è un'altra cosa che voglio fare, altro che... Gava, ma già non serve l'amplificatore. Dai, fai come vuoi, Daniele. Non c'è problema, te l'ho detto. Non l'ho dato, ma lo vogliamo prendere. Ehi, adesso gioco questo pallino per la testa. Scappa. Capa Roger. Mi ascolti? Questo è l'altro gemello di quello piccolino. Questo dice più buono, più meglio dell'altro. Sì, questo va meglio lui. Ma va bene. Capa. E perché c'è il microfono che ha detto quell'attacco, capito? Gli ho messo quell'attacco, non so quello al pinotto, gli ho messo quello. E poi l'abbiamo messo a posto insieme, quell'interruttorino, qui. Col microfono, questo si può mettere il microfono che voglio del semiglio, lo vedi. Che poco esce forte, ma la ricola come mettere 300 con gli adatto. Cabuccia, esce bene, Allora, qui siamo messi bene, adesso punto li meglio con quel microfono che con quella baracchino modificato, non è vero? Cacchio, esce bene, ma la sua ne mette troppo. Però esce forte, ma non lo sto scherzando, Cioè non dico di grossi bucci a tuo bandilli. Ma ti devo detto, ma lo vendi baracchi? No, ma superiamo, me lo compro io. Ma me lo ordi la mazza, sì. Vai via internet, lo ordini. Di bucare un altro. Chi è che mi chiama? Se non sei parla agricola, no? Ma andiamo a riflessi, vai. Ho sentito qualcuno che mi chiamava. Non ho sentito nessuno. Ninna nanna ninna o. Daniele. Daniele, tu l'hai chiamato? Io? No. Domani ci stiamo chiamando da lì. Sbaglio il quadrante a 5, porca c'è la miseria, sta salendo. Ma ah, che c'hai sblatter, no, tu? Negativo. Non ho sentito nessuno. Bravo che l'abbia sentito tu e non io, ma ok, vi sei a casa tua. Ah, sì. Stavo solo. Alla 48, l'M300, lui. Si abbina bene, perché l'ho provato io, poi gliel'ho messo io nell'area 48, ne l'abbiamo provato, adesso qua, e poi ho provato, è normale con 4,5 watt l'apparato, è normale come è nato, certo se gli dà un po' di radio, un po' di cosa, è guai questo apparato, è normale, c'è un 4,5 watt, gliel'ho misurato io, è sempre da come l'avevo comprato, è stato messo un cazzo quell'apparato lì, quello che è stato operato adesso, osservatore agricolo. Ascolta, ma a lui l'hai dato l'M300? Lui l'ho dato, l'ho preso da lui. Male fatto, non si trova il microfono lui. Non si trovano. Oh vabbè, se non te ne fai niente, tu poi ce l'hai già il baracchino omologato. Brava, il baracchino modificato. Lo so, non si trovano più i microfoni, no? Si va, ne ha uno mio fratello. Era della buona e ma del cognato. Stanno vendendo tutto a blocco lui, tutto a blocco, c'è un baracchino, c'è un amplificatore, c'è un alimentatore, c'è un dipolo, c'è una camera ecco, ce la mette 300, ma un po' di roba, 300 euro vuole. Positivo. No, ma il mio era nuovo, se lo sai, quello mio era nuovo. E io ho detto, ma tanto non me ne facevo nulla, ho detto l'altro giorno, ti interessava, dice, ma mi interessa a me, lo voglio io, lo voglio per... È venuto Salvatore l'altra sera, ma io sto cercando un microfono come quello lì, dove ho posto... sto solo voi, e glielo ho dato, glielo ho venduto. Guarda, esce veramente bene quel microfono, un bel forte anche. Solo che lo tiene troppo alto di ecco, vorrebbe leggermente abbassato, e poi va benissimo, ma ci sa che le mette 300, guarda, mio fratello ci aveva tanti anni fa, quando lavoravo con Pier Andrea, sicuramente tu lo conosci, l'avrai sentito, ci aveva un lineare da 500 watt, ci aveva il tornado 4005, tipo quello, questo che sto usando io, in più le aveva 300 modificato, gli avevo cambiato il trimmer, ma riuscirà che è una bomba. No, adesso lavoravo con Pier Andrea, ma Pier Andrea lui cosa faceva? Da meccanico con lui, cosa faceva con Pier Andrea? Il furgone ci aveva il Pier Andrea, lui, e consegnava. Pier Andrea papà, alfa, te la metti. E adesso non parla il punto, ha avuto un intervento, no, sono un po' per lo stesso, perché lo conosco abbastanza bene. E solamente lui stava lavando un rifugio a Occhista. Ehi, sono tanto nuovo sempre. Beh, a me non c'è pure, vabbè, ha avuto un'operazione là, perciò non può parlare neanche. E vabbè, si è lavato con lui tanti anni. E sono andato un paio di volte, mio fratello, alla Maddalena, sono andato lì dai parti di Urbia, la zona lì, ci andavo ogni tanto, ma usciva che non c'era per nessuno, c'era la PL1000, PLC1000, e in più quel amplificato della 500, e ora mi ha detto lui, siamo vicino a casa, di vicino alla chiesa, ma tu senti un attimo, ma alza la cornetta, alza la cornetta e entra la cornetta al telefono. No, ma aveva gli apparati lui, Pier Andrea ne aveva, è stato sempre facendo, modificato, e adesso l'antenna deve, la promessa, l'antenna per il cranio, all'altro cranio che c'hanno Pierpaolo, a mettere l'altro cranio. È un apparato, mi sembra, adesso è uno, ma vogliamo dire, che aveva l'adatto, l'adatto per Andrea, l'adatto a quello di studio, al nipote di Vicento. Vicento lo si butto d'ora, che aveva i tiri. Bravo, bravo, è il nipote a Arturo, tanto che mi Daniel. Ehi, Lucari, ecchi me. Ma tu eri col bip? No, se non ne ha bip, se non ce l'ho quello col bip. Ma che era, avanti? C'erano col bip. Ehi, ehi, al DG. Ehi, io lo so. C'erano un impianto lì, allucinante, qua. Era micidiale. E infatti io una volta andavo apposta con mio padre per parlare a baracchino. Ogni volta mi vedeva un cassettone. E da lì mi è andata la passione, mi lui. Se no io baracchino non l'avrei mai messo. Comunque questo è il gemello dell'altro. Va bene. Ah, vado a via meglio caffè, questo me lo seguo in macchina, allora che sei meglio l'apparato, e l'altro lo doppia, dai, non sto vendendo l'altro, che non mi piace. L'altro chi? Quello con l'eco? Però lui c'ha la radio bassa, Luigi. Oh, allora ho messo mano al vino, ma non per il rifitto, l'ha rovinato scheda, ha fatto una scheda eco, tutto ha rovinato al vino. Adesso l'ha rimesso, l'ha rifatto tutto Roberto, l'ha rifatto Roberto e quello che ho provato prima, l'ha rifatto Roberto a moto, ha cercato di recuperare la camera ecco e ha cercato di componenti, capito, l'ha fatto molto. Cercate di aggiustarlo un po'. Ah, quello con lei, questo bisogna un po' comprare, lo stai vendendo? No, non è roba mia, l'ho ritirato, è del collega di Palmerio, capito? E quello stai vendendo? Quello, questo piccolino Pitla, questo accento, cos'è? Ah, vabbè, anche io non ce l'ho già comprato per metterlo in macchina della 25. Ehi, ehi, e se capita lui? Ah, non ho chiesto un malacchio, ma adesso non mi ricordo chi. E anche io me l'aveva chiesto. Cioè, vabbè, se capita qualcuno vuoi farci sapere qualcosa. Ah, c'è un collega mio, adesso questo ricordo me l'ha domandato, vai, no, Ramona, me l'ha domandato un collega mio, dai, che lo do a lui, lo penso che lo do a lui, dai. Dai, andava bene, stiamo facendo un po' di aereo, va, per carità, non ci ho messo di scatole. Andiamo avanti, boh, chi ha chiamato? Pierpaoli, sì. Sì, io già sono qua, già. Adesso me la vado un po' in correttine. Mi si stanno calando le pupille. Continuate voi, là. No, ma là, ci siamo più tardi. Vai, Daniele. Stavo dicendo, ma lui dice la radio è un po' bassa, il segnale, vabbè, ma la radio è leggermente bassina. Fa un'impressione. Sì, è un po' bassa, io già riesco a sentirlo bene lo stesso, dai. Non è sempre come c'è sempre, sparato. Poi va bene, dai. È un po' bassina la radio, sì. Sì, ma un baracchino normale, mi, sì, sì, con vatti, mi, oh Luca, 5 vatti, è quello piccolino, mi, che abbiamo messo a posto assieme. Ma c'è 5 vatti, poi c'è anche un watt. E ti faccio vedere, uomini, un watt e mezzo mi senti lo stesso. Sono sicuro mi senti anche bene. Non accetta, non c'entra niente il watt, è la radio che è bassa, capito? Che è questo? Ma è un piccolino come apparato, non può dare più dati. Se non metti male a Roberto, già te lo metto un po' di radio. Ascolta Luca, sai cosa c'era? La colonnina la tocco col dito dentro e funziona, è rotta. Ma c'è qualche colonnina di dentro del paratino? Mi dite la c'è roba. Mi stare uguale, ce l'hai una in più. Sì, in più, c'è. Quando ti capita che il costo te la cambia, adesso prendi quello che stata creando perché si è bloccato, ho messo un po' di mate, se non funziona, però si è bloccato nuovamente. E lui appena ma siamo ancora a lì già tra passo. E sempre se è uguale, ma ristrato, forse invece mi rimane più piccola. Vabbè, comunque sei già tra passo, Positivo, positivo. Positivo, ma andava bene. Cioè, ricordami, cazzo mi dimentico sempre lui. Quella staffa della boomerang, ti devo dare. Senti, ci vede ancora il sa boomerang. Siete penocchie, sei qua, già c'è. Ascolta a me, invece tu, tanto ce l'hai qualche malattino vecchio, gli cambio, lo do a cosa lì, che se faccio cambiare l'attacco, come ho fatto all'altro piccolino, che ci fanno bene tutti i microfoni, perché questo è in casa al finotto, quelle 5 gli faccio, se ce l'hai quell'attacco del tipo alla 48, gli attacca al baracchino mentre lo spinotto del mai, ce l'hai qualcuno di quelli? Pure quello ci abbiamo. Ah, c'è un altro. Quello che serve lo faccio modificare così, c'è meglio quell'apparato là, e tolgo quel microfonino piccolino. E anche quello, non c'è problema. Io recupero tutto, Luigi, tutto. Va bene. Vabbè, ormai sono di passaggio lì, già, però facciamo questo. Ti trovo già, al limite lo lascio lì, ti faccio una telefonata, dico che la sto mettendo lì. Ma se non ci sei, lo metto dentro, dai. Ma cosa ti capita, non ci sei a casa, c'è in garage. E te la appoggio lì da qualche parte. Cassetta della posta. C'è la cassetta attaccata della posta al garage. Buttatelo dentro, se non ci sono io. E c'entra acqua? L'acqua già la guardo ogni giorno, io non mi disoccupare. Se c'entra acqua già. Ma comunque se ce l'hai già. E se poi già ci sentiamo, dai, diciamo. Non è che. Posso anche fare un salto io. Domani mattina ci prendiamo un caffè, non c'è problemi, Luca. E come vuoi lui, non c'è problema. Come vuoi, ci sono di passaggio, te lo passo io, ci mancherebbe. Va bene, ok, vai Daniele. Via Daniele, si è bruciato il baracchino lui, il tornado. Troppo attirato, lo potevo lasciare come era prima, Tornado, ma quale? Quello grande? Il 34S, quello monogatto. Vabbè, non è. Ma ha bruciato come? Il finale ha bruciato. Il finale non è che cosa? Il finale ci va. Non sono come quelli del Midland, sono verdurini questi. Non pensi che costano parecchio? Costa qualcosina in più di quelli normali, diciamo. Perché quello lo puoi portare sia alcuni cilvatte. È di brutto pure, il mio sale a 17 watt, tirato al massimo. Solo che lo rovini, adesso l'ho portato a 8 o 10 modulati. Dai, io faccio una solita, come la prendo un caffè, dai, scusa, ci sentiamo, fino a prima delle 5 c'è già rientro nuovamente, là. Ehi, andate, vai lui, no, siamo qua allora. Avanti, andi tu. Ciao lui, un po' bassino di radio ti sento, ma già ti sento bene. Comunque, se te ne stai andando, ti saluto là. No, se ne sta andando, tu si sta spostando, vi dico adesso. Si sta ascoltando, no, non ho sentito bene perché è un po' basso di radio. Il segnale mi arriva, no, però di radio è basso. Buono, quando se ne sta andando, sta andando al cimitero, capito lui? Allora tu. vabbè, mi sono confuso. Mi sei confuso da confonderti. Chiappa. Questo Daniele ha bruciato il baracchino. Hai fatto un errore di sbaglio, tu. Hai fatto un errore di sbaglio. E io lo segno, Ma cosa? Perché? Daniele. Non ha compreso. Vedi un po'. No, c'è qualcosa di nuova. Va bene. Questa è più alta del radio. Gracchia un po' lui, gracchia, forse è troppo tirata di radio con quel baracchino, ecco perché gracchia. Ce l'ha fatta la base, chiaramente sicuramente, guarda, sono sicuro che va bene. Prova a vedere un po', glielo dici. Se vuoi andare così, tanto che non bando la tela a tutti. Allucinesce bene, senza problema, gracchia un po'. Forse magari la fai gracchiare tu perché c'è la voce grossa. Oh. Scommetti che non sta gracchiando più adesso, mi ha detto Roberto di regolare l'apertura della radio dal Mickey Gay, che lui lo aumenta di più e se lo porta al massimo gracchia, guarda se gracchia, l'ho diminuita un pilino. Sì, va bene, un po' lui, un po', non è chiara, non è bella, bella limpida come la fai giovane sei tu, capito? Già va bene, va un po', forse male perché sei tu lui che c'ha la voce grossa, dai. E magari se tu fa per la voce tua sono convinto che va bene. Positivo, dai. Ma sono io che la faccio gracchiare, capito? Quando vedi che la voglio una gallina la faccio dipende Luca, perché io la faccio anche uscire anche più male. O se no a volte uscire anche migliore. E già va bene. Adesso meglio lo senti Daniele. Adesso è lui, va bene, mi gusta. Pulso. Questo apparato mi sembra, non vorrei sbagliarmi, quello che ci aveva Franco, preciso ce l'aveva, che gli aveva dato, ma può essere l'Intec. Mi sembra che si assomigli, non ne sono sicuro, ma mi pare che si assomigli a quello che aveva Franco. Non è l'Intec che aveva Franco, che aveva dato Valberg in macchina. L'FM 548 c'era, cioè no, Franco. L'FM 548 SX. Micro 600 SX. E lì siamo, anche io c'ho il 500. E vedi modificato con la camera, ecco. Come gira, ti dico anche infatti, prima da Piero Caffè dove le fanno, aspetta che mi metto gli occhiali e ti dico quanti infatti sta pompando, capo. Comunque poco fa mi è sembrata una persona, ecco, bip. Allora, l'importante è 12 watt, però bisogna cambiare, vediamo un po'. 20. Ora, 24. 24 modulati e... è quasi 30 di fischio. Vediamo, va bene. secondi di bianco, mi ha chiamato mo. Ehi, questo è un Interc che hanno fatto un po' di lavori, capito? Un Interc che hanno fatto un po' di lavori e di un amico, dai, io devo tornare. Gigi! Che? Yeah. Ehi, ciao, Giovanni! Giovanni Cambilargio? No, negativo, dai, Giovanni dell'Acci. Giovanni dell'Acci? No, Acci, Acci, soccorso stradale, siamo incrociati. E sei basso, basso come una cosa, non riesco a capirti, basso basso ti sento. E perché sono in movimento dentro qua. Meglio mi ascolti adesso. Ehi, basso, ma ti tiro fuori, ho capito, Giovanni, Giovanni. Dai, soccorso stradale. Soccorso stradale, lui. Ho capito, no? Nell'Acci, soccorso stradale, quello di Alghero, amico di Angelino, avanti. Ah, che lo... Ehi, ho capito, ci siamo sentiti un giorno. Ehi, Giovanni, ma dove... ma di Don Alghero sì, no? No, negativo, per Danieta, dai. Ehi, ci siamo sentiti lì Alghero, un tempo fa, dai. Ehi, no, stavo ascoltando che stavo... facendo, mi dici che marca è quella, quell'Intex? Te lo scusa. È un SM600SX. K, siccome ne ho uno uguale io, capisco, per quello che ero interessato. Vedi, ti piace questo come sta girando? Ma, cambiato il finale? Non mi dire nulla cosa ne ha cambiato, l'ho dato da quel, l'ho mandato dal dottore e il dottore gli ha fatto il lavoretto, capito? Capa, sicuramente, dai, perché io l'ho spinto, ma non arriva così, dai. Quello che stai, non è quello che stai provando adesso, no? No, negativo, questo è un altro, questo è un giocattolino, dai, è uno che uso qua, su questa barra, per il momento sto usando questo. Positivo, no, non lo so, sono delle procedure da fare, capito? Per farlo salire di infatti ci sono delle procedure, addirittura questo non c'è neanche doppio modulatore, perché l'ho visto che non è a doppio modulatore. Però non si può far salire, si può far salire quella portata lì. Capa, ti scoccio solo un momentino ancora, guarda se hai apparativi omologati, che ho dei colleghi che mi stanno ammazzando il cervello, che vogliono trovare, vogliono mettersi l'apparato in camion. Un apparatino omologato ce l'ho proprio poco fa, se ti interessa, ma qualcuno lo stavo vendendo. Dimmi cosa è, dai. È un Midland alla 100, il 100, piccolino è. Quello piccolo, c'è l'Angelino quasi preciso, l'Angelino ce l'ha preciso, l'avevo dato io il gemello, quasi gemello. K, lo conosco, se non sbaglio è quello che non ha l'FM, è vero? No, ne ho due, uno non c'ha l'FM e l'altro c'ha l'FM, capito? L'altro ce l'ha l'FM, il 100 c'ha l'FM, il 20 del 199 A non ce l'ha. Ah, ho capito. Non so, dai, se fai un prezzo poi io comunico e ti faccio sapere, che sono due persone interessate. 50 euro e ce l'hai, non senza problemi. Uno solo quindi me ne dai, nel caso? Uno solo te ne do. Capa, dai, dovrei vederlo stasera o domani, poi ci sentiamo in frequenza, dai, ti faccio sapere, ok? Ah, non c'ho problemi, Angelino, c'ho il mio numero di telefono, capito? C'ho il mio numero di telefono, Angelino. Se vi interessa, poi, se no, senza impegni, senza essere, senza problemi, se no, se ti interessa, va bene, se no, ci sono problemi, capito? No, mi interessa perché mi stanno ammazzando il cervello, se glielo trovo finiscono di ammazzarmi il cervello, capito? E poi ne ho, se non l'ho veduto, c'è un altro amico che ce l'ha, c'è una alla 68, un amico che se lo sta vendendo, una alla 68, però ne vuole qualcosa di più di 50, la 68 non so se lo conosci. K, che lo conosco. E anche uno di quello c'è in vendita se ti interessa, me l'ha detto un amico che lo sta vendendo. Dai, grazie per adesso, scusate per l'intromissione, riprendete che continua il lavoro, ciao. Ehi, ciao. Luigi. Ehi. Chi è quello niente, sta accendendo solo una cosa quando schiaccia, ti fa vedere nulla, capito? Devo... Mi sembra che ce l'hai tu, Anto, preciso. Cazzo, ce l'ho io. Se funziona molto bene. E ne ho due io, ne ho una da 199 e l'altro 100. Ma è meglio il 100 plus. Non è plus però, è questo. È preciso l'altro, al 199, sono uguali. Solo che quello c'ha... cosa c'è scritto? Un watt e mezzo mi pare, 4 watt, no, per me. Quello mio c'ha l'FM e la M. Se lo vuoi sentire te lo faccio sentire, mi subito. Ma tu l'hai lasciato il microfono normale o... Ma tu? Chiappa! Che bene, se vuoi te lo faccio sentire, non ho problemi. Attacca, adesso con la tua mano ce l'hai. Chiappa! E fammelo sentire, dai. Aspetta. Sento Luigi Vulcano. Ehi. Com'è, buona è la modulazione? Positivo, va bene, va bene. Te l'ho detto, funziona molto bene. Lo vuoi sentire anche in FM? No, c'è bisogno, non c'è bisogno, non c'è bisogno. Già, ma ti segnale com'è, di meno di quello là, vabbè. Però esce bene come radio, È positivo, adesso devi dare 2 minuti e ti faccio sentire quello che ho io qua. Ce n'è uno già attaccato, vedi quelli lì. Caffa. Ma mi pare che stavo ascoltando poco fa, mi ha detto che ero basso. Non lì era. Era quello che tu mi ha detto che ero basso, e dai, è inutile che te lo riattacco nuovamente. Era quello lì, dai. Magari, perché eri lontano dal microfono, che ne so. Pure per lavorare a Gittono, che me la difesa di fatti, Gittono c'è di 24 watt, 20 zicco, e quello sta facendo con i fatti sui normali, e ho una differenza enorme. Vabbè, però già funziona bene, dai. Faccelo sentire se lo vuoi, di ascoltare. Ah, ma prova con questa colonnina, col gemello, non si sente meglio, va.